Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Chi si siede è perduto. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Circulation, più si sta seduti, maggiore è la probabilità che si sviluppi una sofferenza del cuore. Obiettivo Salute, la dottoressa Maddalena Lettino, responsabile dell'unità operativa di cardiologia presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Sicuramente la vita sedentaria è molto dannosa per il cuore. È dannosa perché facilita naturalmente lo sviluppo della malattia coronarica, per esempio, e può predisporre le persone a sviluppare quella che si chiama l'aterosclerosi. È stato addirittura dimostrato che quando si sta troppo fermi e si conduce una vita sedentaria possono aumentare alcune delle sostanze che il cuore rilascia nella circolazione come segno di sofferenza. È bene muoversi, è bene fare vita attiva, è bene fare un esercizio fisico regolare, non basta quindi muoversi come succede nella frenesia della vita quotidiana. Cerchiamo di fare un esercizio tutti i giorni, magari una camminata veloce per un tempo definito e se possibile aumentiamolo progressivamente. Naturalmente per chi avesse maggiore tempo libero oltre alla camminata sarebbe opportuno fare un'attività fisica, uno sport aerobico come il nuoto, come la bicicletta, fatti naturalmente in modo amatoriale, ma cercando ancora una volta di mantenere attiva tutta la muscolatura del nostro organismo. E dopo una mela al giorno che toglie il medico di torno, arriva l'insalata che migliora la memoria. È la conclusione a cui sono giunti i ricercatori dell'Università di Chicago, che per quasi 5 anni hanno analizzato e osservato più di 900 persone. A Obiettivo Salute il commento della dottoressa Serena Missori, endocrinologa e nutrizionista. Mangiare sicuramente la verdura ci aiuta a rimanere più giovani in forma, ma dobbiamo farlo con consapevolezza e moderazione. Ma la giusta quantità, soprattutto di verdura amara, verdura biologica, ci apporta un contenuto di vitamine, di minerali ma anche di polifenoli che aiutano a mantenere più brillante la vitalità cellulare e quindi anche il mantenimento di una buona funzione cognitiva, della memoria, ci aiuta a rimanere più giovani. Sarebbe opportuno imparare a mangiare la verdura sia cotta sia cruda. Ricordiamoci che prima del pasto e alla fine del pasto, soprattutto se a base di carboidrati, ci aiuta a mantenere più basso l'indice glicemico complessivo del pasto. In questo modo facilitiamo tutte le funzioni cellulari. Quindi una porzione di insalata anche mista prima di mangiare la pasta piuttosto che il pane un secondo e anche in chiusura del pasto magari una verdura amara come può essere una cicoria ripassata in padella. Utilizziamo anche le spezie come la curcuma e come lo zenzero perché riducono i danni indotti dall'invecchiamento soprattutto alle nostre cellule e al nostro DNA e non dimentichiamo mai l'olio extravergine d'oliva, fonte di polifenoli e grassi essenziali per la nostra salute. Per oggi è tutto, un saluto da Nicoletta.